benvenuto a tutti quanti, grazie di partecipare sempre così numerosi alle nostre iniziative, un grazie particolare ai nostri ospiti questa sera, incomincio da Frank Heller, Guido Rispoli, Renzo Caramaschi e Tony Visentini. Sono tutte persone note che necessitano di una presentazione, ma che ringraziamo tantissimo perché con la loro presenza e con la presentazione del libro di Renzo Caramaschi ci aiutano a promuovere la lettura in una maniera nuova e a far conoscere anche questa biblioteca che, come vedete, è sempre stretta, non riusciamo ad allargarla, però alla fine è sempre ben frequentata e diciamo che anche questi appuntamenti bisettimanali di presentazione dei libri funzionano. È una grande soddisfazione vedere che anche questi libri, una volta presentati, vengono letti, vengono richiesti anche presso questa biblioteca. Abbiamo un riscontro che la letteratura, anche in Alto Adige, sta bene, gode di buona salute. Abbiamo parecchi autori, un incremento anche di non solo di lettori ma anche di scrittori, e questa sera abbiamo con noi appunto Renzo Caramaschi che ci presenta una novità, un nuovo genere in cui si è cimentato con successo rispetto alle produzioni precedenti che vedete anche qui esposte. Ne approfitto sempre in questa occasione per dire, nell'interesse del cittadino, quello che facciamo, ma solo brevemente. Col 1° di ottobre incominciamo il corso di alfabetizzazione sull'uso dello smartphone, iPad, eccetera, eccetera, questi nuovi strumenti per rimanere connessi sempre con la biblioteca. La biblioteca vuole essere un servizio anche a distanza, digitale, e poi ricordo le nostre iniziative bisettimanali, per cui chi ha piacere può sempre rivolgersi a questa biblioteca e avere informazioni sui nostri appuntamenti. Non mi dilungo. Vi ringrazio ancora e vi auguro una piacevole serata a tutti. Grazie. Io rubo solo 10 minuti, poi passo la parola a Tony Visentini, ma volevo dire, perché spesso incontro per strada alcuni amici o conoscenti che hanno letto il libro e mi dicono: ma sai che è scritto bene, ma sei capace anche di scrivere bene? Mi vengono gli scrupoli, perché devo raccontare, lei non mi interrompa perché dopo parla, sennò in 10 minuti, perché mi sono accorto negli ultimi anni del mio lavoro in comune, non negli atti deliberativi ma nei promemoria, quelli che ogni tanto i giornalisti dicono le relazioni segrete, che non sono segrete ma sono di promemoria, accanto alle citazioni giuridiche degli articoli, commi, regolamenti, eccetera, per spiegare i concetti, facevo sempre più riferimento a fatti letterari, e in un caso poi una lettera di questo indirizzata al sindaco ultimo, quello attuale, non l'avvocato Salghetti ma sequestrata dalla procura, faccio riferimento al film Il deserto dei Tartari, per dire se il regolamento vada osservato o non osservato, e individuavo nella funzione del dirigente anche, al di là di tutto quello che c'è scritto nei regolamenti, il buonsenso, cosa che ogni tanto io... Allora mi sono detto, siccome queste cose si reiteravano negli atti amministrativi, mi sono detto: guarda, sei fuso, il tempo che tu vada in pensione, e sono andato in pensione. Poi in 2 anni è uscito quel libro sulla Valle Aurina, e ho fatto 20 escursioni, perché quel libro di 40, ringrazio qui la Rezia, erano 20 escursioni contenute nel primo grosso volume, le altre 20 le ho fatte in 2 anni, quindi, però chi è attento, io lo so, si nota subito una differenza fra l'escursione contenuta in questo e nel secondo. Lì divago, citazioni, filosofia, letteratura, sentimenti, natura, e quindi mi sono lasciato andare. Poi un giorno prendo un libro di Nabokov, ho ripreso questa vecchia mania che avevo da giovane, che avevo perso poi durante il lavoro, e leggo un libro di Nabokov, una novella stupida, ma scritta talmente bene che riuscivo a sopportare questa stupidità. In 2 pagine descriveva una finestra. Poi ho detto: madonna, ma quanto è bravo, sapevo che era bravo, mi piace da matti. Torno giù da una gita in Val d'Aurina, mi fermo a un maso, mangio il panino con lo specchio e vedo una serratura, mi faccio portare gli appunti e incomincio a prendere appunti sulla serratura. Torno a casa, faccio il foglietto sul computer, scrivo una paginetta, gliela mando alla Walter Wolfstra dei Concini, che mi risponde via email: ma cioè, cos'è questa cosa? È matto, sì, eh? Dico, ma come è scritto? Bene, è scritto bene. Allora, dalla serratura ho attaccato la porta, dalla porta gli ho messo il maso, di chi era il maso, perché l'ha fatto, dove era, quando l'ha fatto e cosa è successo, è nato il romanzo. Però devo dire che ho fatto fatica, questo, guardate, ho cominciato settembre del 2010 e l'ho finito nel febbraio dello scorso anno. Poi l'ho mandato a tutti gli editori via email possibili e immaginabili, fin quando avevo perso ogni speranza, è arrivato Mucci, ho detto Madonna Santa, ed è stato pubblicato quest'anno, quindi in luglio, che non è il massimo fine di luglio, perché poi Mucci chiude la via per il mese di agosto e quindi adesso si rimette in moto. Questo per dire che la voglia di descrivere sensazioni di quella che è stata la vita dei contadini di un tempo, io mi sono innamorato di questa valle. I protagonisti di questo romanzo sono quattro: il contadino, il curato Herbert, il curato, la valle e l'ansia di giustizia. Io chiudo qui e quindi passo subito la parola a Tony Visentini, che avrà da fare le sue osservazioni. Devo dire una cosa, e qui proprio per il Tony Visentini, sono andato avanti, mi sono fatto lo schema come pensavo di sviluppare il romanzo, poi ho buttato giù abbastanza grossolanamente, ma in alcune parti è rifinito. Le ho detto: Tony, ascolta, fammi un favore, perché non vorrei perdere tempo per niente, vado in montagna, prova a darmi una letta a questo se sta in piedi. Lui l'ha letto talmente bene, c'è ancora a casa e lo tengo, perché mi ha messo tutte le punteggiature, ma era la prima versione molto lontana da quello che è quella attuale definitiva. Mi ha detto: sì, una storia che può prendere, attenzione, non che prende, che può prendere. E poi e quindi ho proseguito e finché è stato edito, e quindi siamo qui a presentare questo film. Ecco qua. Non vi ha detto tutto Renzo, perché io, oltre a dirgli che può prendere, gli avevo dato anche un altro suggerimento. Siamo compagni dalle elementari, per cui abbiamo anche delle, così, come si può dire, abbiamo delle affinità e comunque dei legami che hanno un peso. E gli ho detto: devi metterci un po' di sesso in più in questo libro, non tanto, ma qualcosa ci devi mettere, perché viviamo in questi tempi. Lui su questo, devo dire, non è che è andato. Adesso vi leggo cosa ha scritto a questo proposito e poi capirete. Io ho il compito di leggere due passaggi che vi fanno conoscere i protagonisti poi di questa storia, che è una storia di giustizia sociale. Ecco, questo è il filone, per cui il sesso c'entra poco in realtà, neanche come divagazione. Però in questo è l'unico passaggio in cui c'è un minimo di riferimento, che è, però, devo dire, siamo a livello di tempeste ormonali dei quindicenni, non c'è nulla di più. Però è scritto molto bene, per cui io ve lo leggo. Lei prova. Spero bene che tu l'abbia provato. Allora, qui siamo nel maso, vicino al maso del protagonista Herbert, su in Valle Aurina. Herbert ha una moglie, non hanno avuto figli. Per la moglie Elizabeth questa è stata una sofferenza atroce, è andata anche in depressione. Con l'aiuto di un prete, altro protagonista del romanzo, adottano un bambino, un orfano, un illegittimo, di quelli che erano ospitati in un convento da altri frati, che prendono questo ragazzo, 16 anni, già grande, abbastanza grande, Christoph, che ha sempre vissuto in convento, se lo porta su nel suo maso, è felice, lo presenta ai vicini, e questo è il momento. Vide, è il soggetto Herbert, che Christoph, il figlio adottivo, osservava con sguardo vivace la figlia di Paul, il suo vicino. Era di poco più giovane di lui, era bella, e si intuiva che nella crescita sarebbe divenuta ancora più bella. Portava abiti semplici, le trecce bionde erano annodate sopra la testa, gli occhi azzurri e un sorriso bianchissimo spiccavano sul volto dai tratti morbidi e accattivanti. Difficile porre freni agli impulsi, lo capì Christoph, che la salutò con molta timidezza. Sorrise imbarazzato, Ingrid rispose anch'essa leggermente imbarazzata. Si piacevano, questo lo si capiva. Christopher era contento di essere stato adottato da Herbert e di avere dei vicini così simpatici, una fortuna. Si sentiva turbato, quel turbamento che cresce negli adolescenti quando sentono l'emozione far scorrere il sangue più velocemente e anche i pensieri. La guardò ancora con intensità. Lei se ne accorse, se ne accorsero tutti, ma Ingrid non sembrava dispiaciuta da quello sguardo. Impossibile sottrarglisi, si sentiva bene, di un benessere che non aveva ancora conosciuto. «Non voglio farvi perdere altro tempo», dice Herbert, «anche noi dobbiamo riprendere il lavoro domani. Spiegherò a Christoph il da farsi giorno dopo giorno, mi sembra forte e volenteroso. Che ne dici, Paul? Ti sembra, come ti sembra questo giovanotto?» «Mi sembra un bravo ragazzo», rispose, «ed anche molto robusto». «Andiamo», e rivolto ai suoi vicini, «grazie e buon lavoro, vedo che il fieno vi aspetta, noi taglieremo domani, speriamo che il tempo regga». Si avviarono in direzione del loro maso, mentre i vicini tornarono ai prati per riprendere il lavoro. Christoph osservò come usavano le falci e i rastrelli, guardò con intensità Ingrid, era salita sul pendio. Nel controluce dell'ormai tardo pomeriggio le sue forme faticavano a reprimersi. Il biondo delle trecce brillava, un'emozione. Il cuore pulsava, lo sentiva. Le montagne gli apparivano ancora più belle. Un tumulto di emozioni mai vissute. Quello sarebbe stato il suo mondo, lo sguardo ancora su Ingrid. Più il sole calava nel tramonto, più il controluce rafforzava le trasparenze dei suoi movimenti. Ecco, queste trasparenze sono state il massimo concesso all'argomento, perché poi ci sono dei riferimenti ai peccati dei frati e delle suore, ma proprio leggerissimi, proprio tirati via come nulla, anatemi contro la Chiesa cattiva. Questo è l'unico passaggio concesso dell'autore, il quale però io so ha anche altre emozioni oltre a quelle ecco, va bene. Il secondo invece brano che vi leggo parla del curato, del parroco del paese, che il cui nome non si sa, non gli viene mai dato un nome, è il curato, il parroco. Poi alla fine si saprà. Non c'erano le parrocchie. Non c'era le parrocchie. Il curato. Sì. Io ho detto il parroco per intendere. Il curato. Non c'erano le parrocchie. Ha fatto ricerche storiche precise in modo che anche su questi punti non ci siano degli errori. Il curato non viene mai, non ha un nome. È un curato che sta dalla parte della povera gente, dei contadini, dei minatori della valle che si stanno ribellando. Lui non è, gli aiuta. Non è che gli aiuta nei fatti, non è un violento, tutt'altro, però è una persona che gli aiuta con il senso della giustizia, con il senso della giustizia divina, della misericordia di Dio e dell'amore verso i più deboli. Tanto è bastato dire queste cose che il vescovo, la Chiesa cattiva, lo castigasse, lo punisse e l'ha mandato in esilio, carcere duro, in Val Senales, alla Certosa. Ecco, e allora questo è il racconto che fa questo curato, che poi alla fine, quando va a Venezia, si dà il nome italiano Eriberto per ricordare Herbert, ma questo fa parte della storia che dovrete leggere, però io non vi leggo solo due cose, non tutte, perché sennò... Allora, per lui avevano predisposto una piccolissima cella. Era posta nell'angolo dei muri perimetrali della Certosa, il posto più freddo, sempre in ombra e all'umido, ove le mura lambivano il monte che a ponente si inerpicava ripido in una disarticolata parete di roccia. Il sole si innalzava alto, ma poi, anche d'estate, veniva impedito da quel monte opprimente che lasciava poco al tepore della sua luce. Con lui erano ospitati altri 12 frati che volontariamente avevano scelto quella vita. Non poteva avere contatti di sorta con nessuno, né a voce né a vista. Solo una piccola feritoia nel muro apriva la cella all'esterno con un passavivande di legno costruito ad angolo che ruotava fissato su perno per consentire il passaggio di un piatto di pochi legumi, l'unico pasto della giornata. Precluso anche alle liturgie, l'unica concessione, la passione di Cristo a Pasqua, nella veglia di preghiera che lui viveva con intensità. Un tavolaccio ruvido per le 3 ore di sonno concesse, murato vivo, poca l'acqua per le abluzioni, un bugliolo per le sue necessità, solo un misero saio come veste, nessun fuoco. D'inverno le mura erano viscide di umidità ghiacciata, neppure la possibilità di scrivere, né carta, né penna, né inchiostro, né Bibbia da leggere e meditare. Una solitudine infinita, un succedersi di giorni opprimenti, tolto dalla vita degli uomini, un rattrapimento del corpo e della mente. Questo avrebbe voluto la Chiesa, un uomo senza più voce. Vi era giunto dopo 6 giorni di cammino, pernottando dove gli era stato ordinato con puntigliosa precisione. Non poteva permettersi divagazioni di sorta, pena la morte. Gli erano stati vietati possibili contatti, se non quelli minimi per ottenere il giaciglio previsto e un tozzo di pane. Il viaggio era stato premonitore di quello che lo avrebbe atteso. Superato il castello Yuval, quando aveva risalito il primo tratto della valle di Senales, osservò quella natura così diversa da quella dei suoi monti. Procedeva lungo la stretta via chiusa da quelle strane pendici. Quella sulla destra lo impressionava per la fragilità. Aveva balze e canaloni che assomigliavano a gigantesche costole tese sul fondo valle, dilavate dallo scioglimento delle nevi e dalla copiosità delle acque dei temporali estivi. Non sembravano rocce, ma cumuli di sabbia sospesi nel vuoto, pronti a franare verso il basso. Era diversa dalla sua valle, così robusta nella sua maestosa solidità. Sul fondo spiccavano alcune cime innevate. Erano i ghiacciai che si innalzavano dallo stretto di quella valle, stagliandosi nel blu di una terza giornata d'autunno. Quella natura non lo colpiva né gli piaceva, avrebbe desiderato riempirsi del suo fascino prima di seppellirsi nella sua condanna, come ultimo ricordo di libertà, ma comprese che era condizionato dal suo intimo dolore. Sognava già il vento dei suoi monti, quelli della Valle Aurina. Ecco, io la mia parte l'ho fatta per adesso. No, buonasera a tutti. Allora, credo la presentazione di Renzo Caramaschi, mi pare di capire, non ci sia molto da farla, perché credo che tutte le persone presenti lo conoscano. Trovo un personaggio molto affascinante a Renzo in genere, ma da quando è andato in pensione è diventato un vulcano in eruzione permanente letteraria, direi io, perché ha iniziato questa, ha scritto quest'opera, questo libro di cui adesso brevemente farò le considerazioni, svolgerò alcune considerazioni, ma so che insomma, al di là delle altre opere che vedete qui davanti nel tavolo, che sono opere riconducibili alla sua grande passione di camminatore e di esperto di montagna, insomma è un'attività quella letteraria. Prima si dedicava 18 ore al giorno, credo, al comune di Bolzano, e adesso insomma una buona parte di queste ore credo che le dedichi all'attività letteraria. Renzo è sempre stata persona, anche se io lo conosco credo bene negli ultimi anni, da un forte interesse intellettuale e spirituale, perché già quando era al lavoro si è sempre stato appassionato di fotografia, grande appassionato di musica classica, grandi meriti credo per la città di Bolzano per aver portato a Bado, e non solo a Bado, nelle estati bolzanine di musica classica, e adesso appunto in quest'ultima fase anche scrittore. Allora, due parole di introduzione sul libro, poi penso che sia giusto che parli l'autore. Allora, il libro appunto è Il segno del ritorno. Secondo me, mentre appunto lo leggevo e poi sapendo di questo incontro, mi sono detto: ma questo non è soltanto un romanzo, ma è anche un libro. In che senso, voglio dire, è un romanzo e un libro? Perché da una parte è inserito in una collana di romanzo, c'è tutto un racconto che chi lo leggerà vedrà, ecco, si colloca come si vede dall'indice tra il comincia nel febbraio del 1519 nel capitolo primo e poi arriva al settimo capitolo nella prima decade del luglio 1526, e poi c'è un epilogo di cui non parlo che è ai tempi nostri e che è anche diciamo, un epilogo che è un po' un giallo nel finale. Le ultime pagine diciamo, si divorano per capire il perché di questo epilogo. Ma al di là di questo romanzo, quindi, che ha una trama, una storia diciamo che prende, è anche, ed è la parte che poi a me anche piace di più, un libro storico direi e filosofico, nel senso che Renzo Caramaschi tratteggia, descrive in questo libro la Valle Aurina nel periodo tra 1519 e 1526, in particolare nel periodo della rivolta del contadina che ha interessato la Germania, il Sacro Romano Impero e poi anche le vallate dell'Alto Adige, e poi continuamente tra questi due personaggi, come bene diceva Tony, di Herbert e del Curato, affronta dei temi che, ahimè, per la mia attività sono temi abbastanza frequenti, che sono quelli della giustizia divina, della giustizia terrena e del rapporto tra questa giustizia e Dio. E su questo, diciamo, i dialoghi tra il Curato e Herbert sono molto stimolanti e diciamo, il lettore è molto almeno credo il lettore attento è molto attirato, attratto da queste conversazioni. Allora, la prima domanda che faccio a Renzo è proprio questa: quando ti sei accorto, questo viene fuori il pubblico ministero, di questa tua vena letteraria, ecco, di questa tua vena letteraria, e come nasce? Io so che ami moltissimo, adesso penso lo dirai, la Valle Aurina, le montagne diciamo un po' più selvagge rispetto a quelle turistiche delle Dolomiti, dove tendo ad andare più io. Come nasce questo libro ambientato in Valle Aurina? Come nasce questo tuo desiderio di scrivere il libro Il Segno del Ritorno? Beh, giustamente, quando nasce questa vocazione letteraria è difficile da dire, perché andando avanti con l'età e col pensionamento, se voi notate, tutti gli italiani sono pittori, poeti e scrittori, quindi rientrano alla grande pletora degli scrittori pensionati, senza offendere la categoria di cui io faccio parte. Era stimolante perché, oltre che vivere la Valle Aurina, ho conosciuto dei personaggi contadini che hanno portato una semplicità, ma allo stesso tempo, mentre sono ignoranti perché non hanno conoscenza di cultura, ma hanno una saggezza e una capacità di inserirsi nella natura che mi ha affascinato. Quindi, da questo stimolo, da questa conoscenza di questi personaggi così semplici, ma allo stesso tempo così grandi, mi è venuto il desiderio di, così non dico immortalare perché sarebbe eccessivo, ma di descrivere questa capacità di inserirsi nella natura, di viverla senza subirla in pace. Cioè, qui ci sono delle riflessioni, una sulle giustizie, perché non dimentichiamoci, il libro non a caso, non è nulla di casuale, quando c'è scritto febbraio 1519, perché? Perché nel gennaio, alla fine gennaio del 1519, muore l'imperatore Massimiliano I e lascia la contea del Tirolo, altro che la Grecia, in default, non c'erano i bot, i bond, ma aveva le casse vuote, aveva ceduto tutti i suoi beni. Quindi c'è stato col successore, il Ferdinando, e poi arriva l'ebreo di Salamanca, portato e inviato da Carlo V, a raschiare quel che poteva per rimpinguare delle casse esauste fatte da guerre. E attenzione, questi contadini, 8 anni prima, nel 1511, con il Land Libellen, avevano sottoscritto l'impegno, che da cui nascono poi gli Schützen, di difendere la propria patria contro gli assalitori esterni. E gli Asburgo, in perenne guerra, questi contadini non si rendevano conto che da una parte era la Francia, dall'altra parte c'era la Repubblica di Venezia, in mezzo l'impero. L'impero ha fatto, il Massimiliano ha preso una sconfitta clamorosa nella battaglia di Calvin contro gli Svizzeri nel 1499. Poi ha perso contro la Repubblica di Venezia, quindi erano veramente esausti per consolidare un potere che ai contadini più di tanto non interessava se non nell'ambito dei propri confini. Bisogna dire che in quel periodo, perché si studia sempre la storia come se fosse l'effetto di scelte politiche, ma c'era un clima veramente rigido in Valle Aurina, ancora oggi, certe volte a fine aprile, metà maggio c'è ancora la neve dalla parte della Schattenseite, e quindi l'estate è breve e quegli inverni, i 5 anni che hanno preceduto l'inizio della rivolta dei contadini, sono stati veramente duri. Quindi c'è stata fame, carestia, pestilenza, c'è stato anche del suo movimento di terremoto abrunico nel 1520. In più si aggiunge il comportamento della Chiesa non propriamente esemplare, le casse dovute alle guerre esauste, quindi i contadini portavano il peso, ed ancora le tasse e il perenne, solo anche allora c'era l'evasione, perché qua ci dimentichiamo, e chiudo con, dato di nuovo la parola al dottor Rispoli, che bisogna fare le riforme, tutto giusto, l'efficienza, l'efficacia, la riforma, la burocrazia, come se le leggi le facessero i burocrati che le devono applicare, non il Parlamento. Ma nessuno, io non sento mai parlare di evasione, che c'era anche allora. Qua parlano di 80 miliardi di evasione all'anno, per 10 fanno 800, per 20 fanno 1600, noi saremo al pareggio quasi, perché abbiamo un debito di 2000, con 1600 saremmo un paese se tutti pagassero le tasse. Quindi c'è sempre questa andare a colpire una classe che è al limite della sopravvivenza. Quindi quando è arrivato il verbo di Lutero, è arrivata questa ventata di giustizia, di libertà, con un rapporto diretto con Dio, ed è esplosa chiaramente con la guerra dei contadini in Germania, ha fatto 300.000 morti all'epoca, e qui in Alto Adige 2.500, 3.000 con storpiate, tutto incendi, si è visto fino alla Val di Non nel Trentino. Veramente c'era un'ansia di giustizia, e quindi i colloqui tra il contadino e il curato si impernano su questo senso di giustizia, al quale il curato inizialmente dalla parte della Chiesa, perché deve difenderla, poi alla fine chiaramente svolta e va oltre quello che erano i desideri del contadino. Ecco, su questo punto ricollegato a questo, diciamo, la Chiesa esce malconcia da questo libro, perché diciamo in questi colloqui e comunque nel libro in generale non è in grado di dare delle risposte soddisfacenti alle esigenze di giustizia di cui Herbert si fa portatore come espressione del mondo contadino. Ecco, una domanda su questo: hai fatto poi delle ricerche storiche specifiche, diciamo, una volta che hai individuato questa trama, collocando in Valle Aurina le rivolte contadine eccetera, era già un tuo bagaglio culturale che avevi coltivato negli anni, o poi dopo sei andato a fare degli approfondimenti specifici? Lo dico perché in fondo, anche se è riferito soltanto alle pagine da 230 a 236, si fa un riferimento, ecco, note dell'autore, da pagina 230 a pagina 236, mi sono liberamente ispirato a documenti d'epoca conservati all'interno dei Lehnbücher Liberi Feudali e della chiesa vescovile di Bressanone, conservati presso l'archivio di Stato di Bolzano. Ecco, questo per interessi me, probabilmente anche i presenti, cioè, c'è stato poi un approfondimento storico, perché scrivere il libro storico è facile fare degli scivoloni, fare un riferimento sbagliato, una descrizione di un modo di vivere sbagliato. Ecco, qual è stato il tuo sforzo in questa direzione? Qui non per vantarmi, però non ho fatto tanta fatica, perché il mio hobby, salvo il periodo iniziale dei 16 ai 22 anni, fin quando ho cominciato a lavorare ai 25, mi sono dedicato alla storia economica, mi sono letto tutta la storia, con l'enciclopedia della storia economica, Cambridge, i libri, Georges Dubil, Goff, l'arte cistercense, le modalità di vita, l'economia, quindi ero inserito, dovevo solo inserire l'Alto Adige, ma io ho almeno una cinquantina di libri a casa mia che parlano dell'Alto Adige, del Geisman ce ne saranno almeno 10, soprattutto uno è bello che qui non hanno, però consiglio Einaudi, Gli statuti impossibili di Politi, che è fantastico, e lì si capisce veramente il pensiero, perché dovete immaginare che quando arriva questo, che è un anabattista, neanche un luterano, e incomincia a dire, parlava italiano, che tutti i beni vadano in comune, che abolisce, attenzione, la nomina dei curati viene fatta dal popolo, del paese, e non dal vescovo. Le proprietà del sottosuolo sono della collettività e non del principe, e con i benefici dell'estrazione di minerali si somministra la giustizia, che deve essere data tutti i lunedì sotto l'albero più grande del paese, e che i giudici, attenzione, vengono pagati dalla collettività e non dal principe. È una rivoluzione folle, cioè il distacco del potere vostro è già ipotizzato allora, non siete più giudici del principe, che sta sempre poi arriva da una parte, siete giudici del popolo, che dovete, e mantenuti dal popolo, quindi non asservito al principe con le risorse, quindi è una... Tant'è che però il curato a un certo punto gli dice al contadino, ma te da dove vivi? Neanche se Dio fosse dalla parte di questo potrebbe vincere, abolire il principe e il vescovo, e dare questo, era un utopista, però lui aveva Zwingli in Svizzera. Quando lui è fuggito, attenzione, dimentichiamo che la Val Venosta confinava con i cantoni grigioni, con la Svizzera, i primi cantoni Uri, Svizzera, Unterwalden e il buon, già andiamo indietro nel 1300, Guglielmo Tell, cosa contro l'imperatore, ma a Calvin gli ha dato una batosta micidiale alle truppe imperiali. E questi, e qui c'è il dottor Kager, poi è fuggito via, però devo ringraziarlo perché no, nessuno nota un giro, uno degli ultimi del libro grosso qui, si intitola Sentiero degli Ingadinesi, vi giuro, non finiva più, 22 km 1400, e quel giro, quell'escursione l'ho fatta studiandomi i documenti della battaglia di Calvin, dove gli svizzeri chiusi, che non potevano attaccare, hanno girato tutto l'ostacolo. Io l'ho fatto in luglio di giorno, questi l'hanno fatto con la neve, in maggio e di notte, e quindi sono arrivati all'Arch, all'Audes dietro, hanno cerchiato e hanno combattuto. Quindi era un messaggio veramente dirompente: la fame, l'ingiustizia, comportamenti delle chiese, scusate adesso, al di là della, non voglio suscitare la sensibilità dei fedeli, ma Papa Francesco sta cercando ancora oggi di scrollare, di dare un po' di senso a una chiesa che sia veramente nel senso francescano di San Francesco, e non di una struttura ecclesiale che, come le strutture burocratiche, tendono a ripetere i propri privilegi. Quindi non ho fatto fatica, perché in 40 anni di lavoro comune ogni tanto mi concedevo anche letture soprattutto di storia economica, quindi, però, e qui ero sicuro, spiego l'arcano di questi documenti, ho telefonato, sicuro che ci fossero documenti di quell'epoca, quindi mi serviva solo per chiudere il romanzo. Ho telefonato al dottor Obermeier, che è ammalato, doveva venire qui, però potrebbe testimoniare. Hans, scusa, ti crediamo sulla parola, sì, ma sì. Va anche la procura di no, avrei bisogno di documenti di quell'epoca, di contadini, di concessioni date dal vescovo a cosa, infatti ha tirato fuori, e di che zona? Di zona di Steinhaus, e lui è originario della Valle Aurina, è arrivato. Quindi ho preso quei documenti riportati, ho cambiato i nomi, era chiaro che era così, perché le proprietà o venivano date dal principe o dal vescovo di Bressanone, e qui era dal vescovo di Bressanone, che poi sono cambiati e firmati dall'Hofkanzler, che sarebbe il segretario generale o il direttore generale dell'epoca, city manager, e col timbro tanto diceva l'H che. E questo, e poi c'è stato, e lui mi ha aiutato, ha detto guarda che ci sono anche delle Widerruf, ha detto, perché è ovvio che nel momento in cui, dopo due anni dalla rivolta dei contadini, è un contadino che 20 anni prima è stato dato un podere da coltivare, gli viene fatto il Widerruf, la revoca, perché è l'effetto della rivolta dei contadini, quindi questi sono fuggiti, hanno lasciato il Maso, hanno dovuto abbandonare e sono stati revocati. Io farei un'ultima domanda prima di passare alla professoressa, che è questa. Adesso appunto abbiamo fatto, hai fatto un'illustrazione appunto di un inquadramento di natura storica. Adesso due parole sul romanzo, cioè come, se ci dici come, diciamo, qual è la trama fondamentale, così per invogliare i pochi che forse non l'hanno ancora letto, qual è la trama del libro, e se è sbagliato dire che un po' Herbert Renzo lo potremmo chiamare all'interno del libro, cioè se ci descrivi un attimino, direi di non svelare bene l'epilogo, perché anche Cristo fa una piccola parte, ma piccola. Seguendo questa tua sollecitazione, allora, quindi un po' un quadro della trama del libro, se Renzo è Herbert e se appunto in questi personaggi poi diciamo avevi davanti agli occhi altre persone che conosci, eccetera, ecco com'è la ricostruzione. Qui io sono un imbarazzo, ma devo dirlo, magari lui si arrabbia, basta quello delle trasparenze, no, perché magari c'è anche quella trasparenza, è un personaggio reale, adesso zitto, la racconto, perché quelle trasparenze io le ho viste. Lo faccio confessare, c'è stata la tempesta, poi abbiamo bloccato tutta una serie di altre cose, perché diciamo, ma via questo, questa cosa la si può scrivere, ma è comica, perché data l'età, insomma, ero a Riva di Tura, sarà in Taufers, finita l'escursione, e c'è questo pendio, il sole tramonta a ovest dietro la montagna, e ho visto questa giovane, era 5-6 anni fa, bellissima, una roba fantastica, con i capelli, le trecce, quello che ho descritto lì era questa, e lì lui dice tempesta ormonale per quel poco che rimane, non una pioggerellina, ma comunque e poi si è girata e io ho guardato il panorama e questa ha fatto un sorriso, ma talmente bello, ed è quel sorriso bianco che mi ha detto: ma quanto sono stupido, ma tu, ma mi sono dato dello stupido, perché era talmente bella, pensavo: ma te cosa pensi oggi, questa creatura così bella? Ma non finisce qui, vado giù dall'amico Franz al parco, giorno c'è lui e mi trovo questa volontaria con la camicia del parco volontario. Mi ha detto: Madonna santa, era proprio lei, bellissima, eh? Ed è di Riva di Tures, e dove studia? Ingegneria ambientale a Monaco di Baviera, tanto per dire sti contadini. E poi chi arriva? Sto splendido ragazzo stupido di Monaco che l'ha accompagnata lì, per cui ecco, quindi stupido, sì, mi sono dato di stupido, però di una, all'inizio c'era un po' di ormoni, poi faceva parte della natura del quadro, e quindi sempre so. Ecco, ma quando leggiamo il libro e vediamo Herbert, è un po' Renzo Caramaschi e Herbert. Sono Renzo Caramaschi, però adesso qui lo dico, è un po' anche lui, perché dal 2010 io ho l'onore che ogni tanto posso, mi concede di mangiare, e parlando mangiare con me, mangiamo assieme ogni tanto con grande piacere mio, quindi per quello che si discute ha un senso di giustizia e di equilibrio. Adesso, però una componente dell'ansia di giustizia di Herbert è questa di ricerca dell'equilibrio, di avere quello che spetta all'uomo che lavora, che è giusto. E lui, il procuratore, il dottor Rispoli, sta sempre molto attento, nel senso che ha un'umanità nella giustizia che rassicura noi cittadini. Chiudo qua perché sennò poi mi arresta. Rischi l'arresto, rischi l'arresto. Applauso. Ritorniamo sulla trama del libro. Sulla trama Herbert adesso, sì, insomma, però c'è Renzo molto in quel Herbert, allora, lì, perché c'è una componente, per chi non l'ha letto, chi lo leggerà, vedrete, insomma, di grande caratterialità, di forza, di personalità, insomma, non è un personaggio mite questo Herbert, ecco, insomma, è un personaggio che si impegna, forte, dotato, pervicace, determinato, con molta volontà, che non accetta l'ingiustizia. Grande lavoratore, però poi alla fine questo lavoro non che gli debba essere riconosciuto, però deve avere il giusto. Quindi quando si innesta, lui non è uno dei rivoltosi, viene scambiato per uno dei rivoltosi perché quando andava giù il paese da questo maso alto aveva sempre l'ardire di criticare, di dire cosa mancava e cosa fosse giusto, e quindi questa identificazione con questa ansia di giustizia hanno fatto sì che i rivoltosi l'hanno individuato come un possibile portavoce per andare dal principe arciduca, e il prete, che aveva capito la cosa, dice: Geismar sbaglia quando andrà lì, perché l'arciduca tende a guadagnare tempo, e dice ai contadini, perché anche il prete era stato indicato, lui insieme a questo contadino, di andare a portare le doleanze, le critiche o le aspettative a Innsbruck. Andate e farete come sempre, vi inginocchierete dinanzi all'arciduca e tornerete con niente, con alcune promesse al vuoto. Questo senso di giustizia, questa ansia di libertà in Herbert è estremamente determinato, ma non con cattiveria, è convinto, contagioso anche nei confronti degli altri, finché quando è costretto a fuggire perché nella lista nera di possibili rivoltosi da arrestare e da giustiziare, non ha il coraggio di abbandonare la propria terra, la valle di Kyle, che il dottor procuratore Rispoli ben conosce, anche la moglie. Ho rischiato di morire, ma è una valle molto impervia. Dove quindi, che c'è anche nel libro, perché Herbert, di ritorno dalle vicende delle rivolte contadine, passa attraverso però, e è fatale a lui. Non aveva una giornata stupenda come il 4 agosto del 2010, una giornata stupenda, ma c'era nebbia alta, e quindi quando c'è la nebbia in quelle zone, quelle poche volte che mi è successo, io mi fermo e sto fermo a costo di aspettare un giorno o due, perché aspettare da sé veramente non si vede, non si capisce. E questo Herbert, pur con i consigli, che non era mai stato, non aveva mai passato questo valico perché era troppo alto, sbaglia strada, scivola, si spezza la gamba e quindi muore lì perché non c'era soccorso alpino, eccetera. È una valle molto aspra ma molto bella, e quindi c'ha questa voglia di rimanere nella sua terra, e concludo dicendo: e lì conobbe la grandezza dell'istante, il suo, Io non so se ci sia il dopo o e qui lo metto nel libro, e l'ho preso da un contadino di 84 anni che il dottor Rispoli conosce, Seppel. Dove Seppel, che tutti dice si agita, ma io te non vai mai, messo, ma no, tu hai paura della morte, del dopo, e dice prima di nascere dov'ero? E il dopo è come il prima, uguali, simmetrici, senza preoccupazione. Non mi preoccupavo prima, non sentivo, non esistevo, non mi preoccupo dopo. È inutile che pensi, mi rovini la vita, vivo quello che vivo. E quindi questa, guardate che andare con queste persone in quelle valli hanno una saggezza, è un'umanità che io ho cercato, mi sono nutrito di questa. E lo sa, perché dice, a un certo punto, secondo me, avrà pensato, questo è pazzo, ho proposto questa gita lassù in Valle Aurina, questa roba, questa barriera, dice, sto qua armato. Però era bello. Ed è il senso panico della natura di cui ci si può imprimere. Poi uno gli dà la parola a Dio, l'altro gli dà la parola alla natura, però io chiudo il cerchio e dico, questo della giustizia e dell'umanità è l'etica fondamentale che sta nella coscienza di ciascuno di noi. E qui chiudo. Grazie. Non vorrei impappinarmi. Allora, cosa devo dire ancora? Molto parlare bene e parlare bene del libro. Si sente? Allora, direi che molto si è già detto di questo libro e molto si è dibattuto su tutti i concetti che esprime. A me ha fatto molto piacere che i giudizi siano stati in massima parte positivi, perché scusate, a me è piaciuto molto, mi ha preso, e credo che difficilmente dimenticherò il messaggio di questo libro, che secondo me non è solo un fatto di giustizia, è anche qualcosa di più, poi lo vedremo. Non voglio rubarvi del tempo, così sarò brevissima. Il mio compito è parlare dell'aspetto letterario, quindi della scrittura, del linguaggio di questo libro. Per me la scrittura è una scrittura alta. Cosa vuol dire una scrittura alta? Non spaventatevi, non è una scrittura complicata, complessa, non è difficile da capire, certamente nessuno si immagini che possa essere pedante, perché la definisco alta. È alta perché non ha cadute di tono, perché in molti punti di grande pathos, e ce ne sono molti, raggiunge limiti anche di alto lirismo, perché sa fare un buon gioco e sa usare molto bene dell'ampio registro del nostro vocabolario, il che già non è poco. Allora, cosa significa una scrittura di questo genere? Secondo me significa un background di buonissime letture. Io, scusatemi, sarà una deformazione professionale, ma non credo ai naif, soprattutto non ci credo nella letteratura. C'è qualche esempio nella pittura, non so, Rousseau, il doganiere, Ligabue, nella musica, la Camprodis, Mozart, ma nella scrittura io penso che un buono scrittore esca da tante letture buone. Queste letture si vanno accumulando, vanno sedimentandosi dentro di lui, e questo fa sì che poi quasi inconsapevolmente vengano fuori le sue frasi, le sue descrizioni. L'autore è ottimo nelle descrizioni, e siano frasi che ecco, sono capaci veramente di usare una gamma ampissima di un linguaggio che ahimè credevamo ormai perduto. Scusatemi, adesso non voglio farvi il discorsetto banale, il pistolotto, come direbbe l'autore, sul fatto che il nostro linguaggio sia molto impoverito, molto imbarbarito, non solo nei media, anche in molta narrativa che circola in questi giorni. Ecco, già solo, mi affido alla vostra riflessione, il fatto che lui abbia avuto la capacità e il coraggio di usare un linguaggio che media dal linguaggio classico. Quando dico classico non penso mica agli antichi, penso anche ai moderni, ai contemporanei, voglio dire, per fortuna ce ne sono di buoni scrittori, però ecco, che usi un linguaggio forbito, un linguaggio che si avvale di un vocabolario, di una lingua bella come la nostra, è già un motivo di vanto, è un motivo di orgoglio per lo scrittore, secondo me. Un'altra cosa, questo è un romanzo di sentimenti, quindi a maggior ragione è un romanzo di descrizioni, perché il sentimento è una cosa astratta, quindi ci deve essere una descrizione, e quindi la sua capacità di scavare nell'animo dei personaggi, e qui diciamo che il linguaggio è ancora più importante, e la sua capacità di descrizione è davvero incredibile. Io ci ho pensato un po', perché mi pareva esagerato scomodare Manzoni, però poi veramente sono andata in un'intervista che una recensione che avevo fatto per un giornale, sono andata a rileggermi l'incontro del curato, visto che appunto ne avevamo parlato, del curato con il vescovo, no? E questa untuosa falsità del vescovo, no? Che nomina la fede, Dio, i fedeli, eccetera, e questa rabbia poverino repressa del curato, che con la coda fra le gambe sa che dovrà tornare dai suoi fedeli che stanno morendo di fame e dire loro che non ha ottenuto un accidente. Ecco, veramente è una descrizione che merita di essere letta. Ce ne sono molte altre, molte, che danno vita a questi sentimenti molto forti, molto che ci prendono proprio nell'intimo. Non so, la preghiera della moglie di Herbert, di Ingrid, che nella chiesa dell'Assunta di Brunico si affida alla Madonna perché dice basta, basta violenza, ci sono cadaveri ammassati lì dopo l'ennesima disfatta delle truppe di Geismar, no? Non so, la dignità di Herbert che scopre che nel sapere, nella cultura sta, mi ricorda Brecht, che nella cultura sta anche la capacità di poter lottare, di poter dire la propria. Ecco, in moltissime queste descrizioni veramente hanno fatto una cosa che mi ha commosso, cioè hanno fatto uscire i personaggi dal loro ruolo e li hanno fatti diventare persone. Questa è la cosa più importante, secondo me, questo è il maggior pregio di questo libro sotto il profilo letterario. I personaggi sono persone con cui noi ci confrontiamo, perché sono i nostri sentimenti che vengono fuori. E sono sentimenti che ce li affratellano, che ce li rendono amici o ce li rendono nemici. C'è la descrizione della protervia, di questi potenti che vedono sfuggirgli dalle mani il potere e che quindi diventano ancora più feroci, e c'è la capacità di raccogliere questa protervia subito, metterla in atto anche da parte dei loro emissari. Insomma, ci sono tanti, c'è un mondo che è il nostro mondo, che è di estrema attualità, come è di estrema attualità cercare di recuperare, dovrebbe essere di estrema attualità cercare di recuperare il linguaggio, ma soprattutto oggi, in tempi di vinti, ecco, questo è il messaggio che non dimenticherò facilmente. Questo è un libro che è stato scritto per i vinti, questo è un libro scritto finalmente dalla parte dei vinti e che serve a ridare dignità a questi vinti. Ha a che fare con la giustizia, è logico, ma credo che questo sia davvero il messaggio più forte, il messaggio che soprattutto oggi, che di vinti ce ne sono molti, di molte specie, in molte svariate dimensioni, questo sia davvero il messaggio più forte. Quindi veramente io vi invito a leggerlo, perché è un romanzo che, nonostante si svolga 500 anni fa, è di una estrema attualità. Un'ultima considerazione, penso che chi lo leggerà, perché non è un romanzo che, come spesso succede oggi, si decanta e sparisce molto in fretta, i romanzi oggi hanno una vita media di 3-4 mesi, poi scompaiono, ecco, questo è un romanzo che rimarrà, e mi auguro che lo si leggerà anche nei primi mille, e nonostante siano passati 500 anni dalla storia, penso che sarà sempre, ahimè purtroppo, di grande attualità. Basta. Vi ringrazio tutti, prendo la parola perché mi ero dimenticato e mi corre il dovere ma anche il piacere di dire che la copertina è tratta da una stampa che mi ha prestato l'avvocato Lohner, e quindi questa copertina è, e poi è il frutto anche, qui ringrazio l'avvocato Saghetti, ben ricordato sindaco, perché la vicinanza con persone di dignità, di cultura e di buon senso, di legalità, aiuta, e quindi questo è il frutto anche di 40 anni di attività che ho cercato di stare nei binari della rettitudine pur con tutte le difficoltà e le complicazioni delle leggi italiane. C'è una tempistica, non però se no, facciamo altre domande, esatto. Noi forse allora farei fare a chi è presente. No, faccio solo un commento, sai, perché è un po' scherzoso. Cioè, ti sono passati sopra questi complimenti a professoressa Heller, che io mi sarei sollevato di mezzo metro. Ho visto che ormai come un grande hotel, sì, li hai incassati, no, come un atto quasi dovuto. Ecco, faccio questa constatazione. Io mi sarei sollevato, ecco, devi dire la verità. Lui, sbaglio, Tony. Io ho una grande stima della signora Heller, perché anche lei di te sembra, sì, ecco. No, ma una persona che abbia letto così tanti libri, il dottor Rispoli parla di me, ma lui quando nell'aula magna dell'università col professor Mancusi è andato ben altri livelli, e si può già anticipare che di quel colloquio, quel confronto sulla legalità, la giustizia e Dio uscirà un volume. Quindi questi, come dire, apprezzamenti della signora Heller non è che non li sottovaluti, no, non sono dovuti praticamente. Cerco di imitare un collega del decessore. Se voi comprate capelli, perché vi devo dire una cosa, io ho già finito, sto finendo il quinto romanzo. L'editore Mursia, io ho già mandato, hanno un diritto di prelazione che entro 3 mesi mi devono rispondere. Doveva uscire ancora questo contratto, l'ho fatto nell'ottobre dello scorso anno, e poi loro si riservavano 2 anni, è uscito adesso. Quindi io, quando è stato ad aprile, ho mandato un altro romanzo di quest'anno, e loro dico: guardi che scade il termine di 3 mesi. Mi ha detto, mi arriva l'email, poi mi ha telefonato, io ero andato a Milano per i contratti, e converrà con la signora Mursia che per il suo libro, che pur ottimo, dovremmo attendere l'esito delle vendite di questo. Quindi questo è un messaggio per tutti noi, sia chiaro. Naturalmente a Bolzano devo dire che gioco un po' in casa, però a Trento, e siccome raccontavo prima, uno davanti di me c'è sempre Roccaforte Afghanistan, scritto da un tenente colonnello che è stato là, e io dicevo: ma cos'è? Davanti a lui nella classifica Mursi, sì, perché sta sempre davanti a me? E poi c'è un altro romanzo, c'ha ragione lui, La ragazzina, no? Tanto per capire. E quelli vendono di più. E fa: ma lei dove vive, cara Maschi? Ma lei a Milano, a Roma, a Catanzaro, niente, nessuno, neanche qua, ma là neanche la conoscono. E poi dice: l'esercito italiano in Afghanistan da più di 10 anni, sa quanti militari sono passati là? Almeno 35.000, metà di quelli comprano il libro Roccaforte. E fa: di suoi contadini? Quindi voi io avrei una domanda, non per Caramaschi, no, non serve, ma la rivolgo più al sindaco Salvietti, che certamente può rispondere. Io sento che tu hai altri 5 romanzi pronti. Allora io dico a Salvietti: ma siamo sicuri che in comune lavoraste? Non li ha scritti in comune durante le ore di lavoro? Io posso testimoniare che li ha scritti dopo. Gli ho scritti, guardate, questo ci ho messo Ho cominciato nell'agosto del 2010, poi ho avuto il Festival dell'Innovazione, finito quello nel settembre del 2011, ho cominciato da lì dentro e l'ho finito nel febbraio del 2013. Nell'aprile l'ho mandato in giro, ho firmato il contratto dello scorso. Finito questo, sono partito con gli altri. Guarda, vi do dei titoli stupendi, ve lo dico già. No. Sanchetti non dice niente, quindi vuol dire che niente. Posso testimoniare io? No, non gli è venuto nessun dubbio. Ho avuto 18 anni come capo dell'opposizione, era il funzionario più pertinente e più preparato. Grazie, ma ho cercato di iscrivere al partito, ma mi ha detto di no. È un uomo libero, un uomo libero. Sì, volevo dire, vi do i titoli perché se qualcuno volesse telefonare a Mursia, però si sono fatti vivi. Quando io l'ho presentato, devo dire, a Campo Tours l'11 agosto, si sono fatti vivi. Segno per un ritorno. Sì, ha cambiato il titolo, ma se io avevo scritto il segno per un ritorno invece ha fatto il segno per il ritorno. Però ci sono anche, si sono interessati in una piccola casa editrice di Vicenza, al quale io ho già mandato il libro perché i 3 mesi di Mosse ne sono scaduti. Loro hanno detto vabbè, vediamo come va questo, però io gli ho detto guardate, mi ha risposto abbiamo anche autori di 92-93 anni e dice poi non esiste che di un autore sconosciuto come sono io al massimo se le va bene ogni 2 anni. E dico, allora ho fatto il conto 4 per 2 8 68 8 76 e gli ho detto guarda che a me le opere postume piacciono ma quelle degli altri adesso staremo a vedere. Dobbiamo dare una spiegazione anche di ha chiamato di siccome sì. Alcuni mi chiedono se è vero o falsa la storia eccetera, qui c'è la risposta e io la tiriamo fuori. Sì è una cosa, spero di non far danni. No questa è una serratura del 500, autentica, che poi è la protagonista del finale 400, venga a leggere, venga a leggere. È la protagonista del finale, la serratura legga qua 1496 che 1496 cosa c'è scritto lì? Sì, HP. E? Ah sì, è sotto lei. Lega. Herbert. No, è qua. Sì, è qui, cosa c'è scritto? 1496. Qui, HP, Herbert Kruger, sotto Kruger, quello sì. Che ha fatto sì, la quello che ha fatto la e qua c'è la chiave, eh? Sì, certo. Attenzione. Ma volevo chiederti, ecco, non è che tu sei l'ultimo dei Kruger dato che hai la serratura? Mi piacerebbe tanto esserlo. Perché però l'epilogo ruota poi intorno a questa serratura. Per chi non ha letto il libro, ruota. Non è c'è un epilogo dei giorni d'oggi. Vediamo un po' di fatto. Mi piacerebbe con quel maso, voi dovreste vedere i masi, perché non è che sono inventati, i 3 masi sono ancora lassù che pendono su questa valle sopra che è di pietra e sopra hanno la valle di Cari che il dottor Rispoli ha fatto e la moglie di dottor Rispoli, meglio le foto dottore, devo dire meglio del dottor Rispoli ha fatto, ci aveva messo 11 ore perché sono 1400 metri di dislivello, 1400. Ma non io soffro di vertigini, pensate alla forza di quest'uomo, mi ha trascinato anche io. Io soffro, non tu, mia moglie. Vabbè, ma non dobbiamo parlare. Renzo, dove si rompe la gamba e vabbè. Non è che lui, tu invece ti sei fatto sempre la sinistra, ti sei rotto un tendine? Sei fortunato. No, io devo dire, là dove lo faccio c'è una foto in questo libro della Valle Aurina, c'è un ghiacciaio. E bisogna stare attenti, adesso qui vado un po', va bene per il CAI, tra nevaio e ghiacciaio. Il nevaio si va bene perché cede un po' la neve e tiene di più, il ghiacciaio si scivola. Quando uno sta troppo alto lì e va a finire sul ghiacciaio e scivola, io ho descritto la rottura della tibia al perone, frattura esposta, perché io mi sono trovato per terra giocando una partita d'hockey, mi sono trovato col ginocchio dritto e il piede giù e l'osso qui, quindi la descrizione che faccio nel libro è quella, è il dolore che ho provato io. Per questo l'ho messo dentro. È chiaro che lì, poi mi sono informato con un dottore dell'ospedale amico e gli ho detto ma quanto può resistere uno senza cibo, senza acqua, al freddo, a 2700 metri con una frattura simile che si gonfia, dice 2 o 3 giorni non di più, col gelo della notte va sotto zero, quindi assale la febbre e poi si muore. E lì io credo che sia una delle parti più belle, ho detto la Valle di Caile è una delle protagoniste del romanzo perché il figlio che poi riesce ad andare nel Veneto, di notte sogna questa valle e gli manca questa valle, ha i due figli e poi non vi dico l'epilogo se no non lo comprate più, quindi non credo che però conta tutto. Io non gli ho chiesto: ma quant'è il punto di oltre il quale decidete se pubblicabile o non pubblicabile secondo? Non me l'hanno detto, quindi io non ho capito. Chiaro che sono quantità piuttosto elevate perché hanno un mercato nazionale, però torno ai titoli che mi interessano. Si annuncia le future opere. Sì, allora, le cicogne volavano basse, la storia del finanziamento di un partito del sindacato nel Kosovo nel 95 eccetera. Questo numero l'oblio due. Dei silenzi, che è un misto di una mia storia di giovani in Svizzera, di lotta di partigiani nel basso Mantovano, molto bello eccetera. E l'oblio dei silenzi, ondulati orizzonti, una ondulati. Piccola luce di ondulati orizzonti, che è la storia del prozio di mia moglie, che è partito da Roncenio come soldato asburgico, è andato a finire fino in Cina, poi l'hanno mandato in Siberia a combattere perché intanto era diventato soldato italiano, è tornato nel 20, è l'ultimo che secondo me è un capolavoro. Devo ancora finirlo, però sullo scrittore a sua volta, uno che ha venduto. Sì, no, io lo faccio adesso, no, perché ci saranno persone colte di sicuro, ma Ben Traven, chi lo conosce? Oh, nessuno della Domenica del Corriere. Ben Traven ha venduto 30 milioni di copie di libri, 30 milioni tradotto in 40 lingue. E io immagino da un diario di fare la storia e collego Vladin dalla Val di Racinesco con lo stregone Pfeiffer Uysele, che era un senso di libertà eccetera, bruciato per quello, con Ben Traven, che era un rivoluzionario anarchico, non andava bene né ai capitalisti né ai socialisti perché era troppo libertario, quindi collego i due e sto finendo in questi giorni, ci metterò ancora 3 settimane, poi pronto per le stampe, chi volesse. Scusami, non possiamo mica già comprare adesso? No. Prenotare. No, volevo fare una domanda a proposito di tutta questa produzione. No, io so che per fare un buon romanzo, e insisto sulla parola buono ovviamente, servono due ingredienti, la creatività, cioè la fusione, l'ottima fusione dei due ingredienti, cioè la creatività, l'inventività, e quella, stiamo attenti a non raccontargli storie perché sennò arriva fuori anche il sesto, il settimo, eccetera, eccetera, no? Poi dopo bisogna affidare a qualche giovane che diventerà il postero, al nipote, eccetera, ok. Però, allora, la creatività su quella non ci piove. Poi ci vuole un bel lavoro di buon artigianato, cioè lima, cesello, taglio, cucito, eccetera. Allora, chi dice che la scrittura è facile? Secondo me non ha capito niente e non sa scrivere. Vorrei una conferma. Io faccio una fatica veramente immane. Quello che dico, vado veloce, ma perché sto seduto? Anche 9, 10 ore, 12 ore al giorno, ma attenzione, io mi siedo che mi si informico il sedere, e quindi sono costretto a... Poi ogni tanto vado in montagna e mi sfogo, però dopo cena sono capace, se mi viene un'idea prendo il computer, inizio alle 9 e poi mi fermo all'una di notte, poi lascio 2 giorni, poi rileggo, aggiungo, tolgo. Guardate che è un lavoro di cesello. Io tendenzialmente, come tutti quelli che non sanno scrivere e sono le prime armi, per dimostrare di essere capace di scrivere tendo ad eccedere, quella. E l'ho fatto leggere anche al dottor Bernardi, dice somiglia a John Dos Passos, io non l'avevo mai letto, voglio a comprarlo. E mi ha detto: sei di un barocco asciutto. Non è facile barocco. Barocco asciutto, detto, barocco e asciutto mi piace, il barocco del testo. Allora ho cominciato a togliere aggettivi, a semplificare, ma guardate che è un lavoro di limatura micidiale. Però, tanto per dire, perché dice mi invento, no? E allora, se non ho una trama, un ordito di fatti reali, collegati con la storia, precisi, poi i buchi in mezzo di collegamento tra i fatti reali, dove non esistono chiaramente testimonianze, li ricostruisco con la fantasia. Però attenzione, in questo lavoro di Ben Traven, per scriverlo mi sono letto 3 libri suoi, tanto per capirci, quello, il tesoro della Sierra Madre, dal cui romanzo ha tratto il film, che ha vinto l'Oscar nel 48 con la regia di John Huston, e questo qua ha cambiato 46 nomi, cioè non era Renzo Caramaschi che voleva fermarsi, lui si nascondeva, ha cambiato 46 nomi e diceva: ah, vi mando il mio assistente che si chiama John Travolta, e lui si presentava come assistente e assisteva lì. Lui affermava che il successo di uno scrittore è la sua morte, punto. Allora, non succederà mai, quindi spero di lungo, però insomma, ecco, non, mi sono ripromesso, c'è scritto nel romanzo, farà dire qua, sono ancora incerto, che per rispetto a lui camuferò il libro, se mai uscirà, uscirà con un nome che non è il mio, questo l'ho scritto, quindi vediamo. Quindi poi dopo quando ce lo devi far sapere però cioè, ma non so come fare a presentarlo. Ma allora stiamo parlando di va bene, vi ringrazio. Cosa arriva prima degli altri libri? Cioè, non è che dobbiamo andare in ordine, c'è una domanda lì giù. Lui l'abbiamo fatto alla scuola insieme alla ragioneria. Dopo queste lodi strepicate, ecco, arriva, a cui mi associo, ho detto che avrei fatto una critica. Sì. Perché il giallo, come ha detto Gentili, che c'è una specie di giallo in fondo, dottore, sì. Ma il giallo non sta in fondo, sta in una parola che crea angoscia, il mousse. Abbiamo battuto 14 volte e tutti aspetto che gli spieghi cos'è. Uno che non so quel tedesco muore. Noi l'abbiamo anche visto. Io allora, avrei dovuto mettere una serie. Il Moso, cioè San Leonardo in Passidia, Moso in Passidia. È un prato acquitrinoso, palui è il palui del Trentino, dove palui è nato il Mosè, il Mosè, è una cosa paludosa. Lui ci ha camminato, è erba, si vede, che, però quando ci si cammina si sprofonda un po' perché è molto acquitrinosa. Ecco, quello è il Mosè. Ecco. Poi mi ha chiesto anche la Mosa, ma la Mosa, tanto parliamo. Quella quando ero bambino, qui c'è la dottoressa che era farmacista ai tempi di mia mamma, cioè. La ricordo e sono felice che sia qui presente. Oh, tante volte alla sera si mangiava il latte col pane vecchio pestato e si faceva bollire, veniva fuori la mosa. Su Valaurina ancora, su nei masi mettono un'unica cosa e col cucchiaio ognuno fa un giro. Quello era il mangiare. Ci sono altre domande? Prego. Devi leggere un libro sulla mosa. Io per tutta la serata mi sono dimenticata qualcosa, la serata di viaggio di colpa mia, e mi chiedevo 10 volte: ma come avrà fatto perché ad ambientare quel romanzo nel 1500? Sì. Poi lei ha aperto quella, perché è 1400, ma lei è bastata quella seratura, la data eccetera, per ambientare tutto il romanzo 500 anni fa? Sì. No, è stata una scommessa. Le avevo detto che avevo letto Nabokov che descriveva una finestra. Era una storia stupida di una donna con due amanti che, stanchi di vivere, avevano deciso di suicidarsi. Poi lei furba, se gli altri due si sono uccisi, lei è rimasta furba, no? E però al di là della stupidaggine del racconto, lui aveva descritto in modo magistrale. Allora, quando sono tornato a questa finestra, quando sono tornato giù, era una scommessa con me stesso, ho detto: aspetta, adesso voglio vedere se sono capace di descrivere la seratura che era quella del maso. E sono tornato a casa, ho preso gli appunti, l'ho descritta, gliel'ho mandata a Wolfgang De Concini e mi ha detto: ma cos'è sta roba? Te è impazzito. E dice: ma cos'è? È la serratura di una porta. Di quale porta? E sono andato avanti, sono partito, non avevo più detto niente, e adesso ha letto il libro anche lei. Però ci sono gli stimoli, le grandi storie. Insomma, non sei l'ultimo Kruger, ecco, quello è forse. Purtroppo no, mi chiamo Renzo Caramaschi, vorrei essere proprietario del Maso, però fanno una vita dura e noi ogni tanto la parte italiana, devo dire, gli danno i contributi per il telefono, per questo. Tutte le volte che io vado su in montagna, mi dico, e vedo questi contadini al di là delle trasparenze, va riconosciuto, dico: ma se a me dessero questo prato qua su a 2002, a 1008, su questi pendii, e dovessi vivere, io tempo una settimana muoio, quelli vivono di mucca, dell'arte, di un po' di burro, del grau chiesa, che è quel poco che resta, del fieno è una fatica bestia, guardate che veramente mangiare grauchese e tagliare l'erba lassù si acquista la linea in 4 giorni. C'è la signora, c'è la cosa, signora, la mia domanda riguarda il titolo del libro, Il ritorno. Io per quello che ho capito e ascoltato mi è sembrato quasi una sua ricerca di ritorno all'essenzialità, perché ha parlato di alcuni valori troppo buono che mette è... sotto il nome di rettitudine, sì, quello, ecco. Sì, quello sì. E poi sì, c'è il ritorno del parroco, del curato, poi c'è il ritorno... No, sono gli adesso non posso svegliare se non me lo comprate sì. Però tanto per dirvi, quelli di Murcia mi hanno detto: ma dov'è la Valle Aurina? Attenzione, non è che la Valle Aurina sia Se Moritz, Chamonix o la Val Gardena o la Val Badia. La Valle Aurina comincia a conoscere adesso un po' di turismo ed è una valle estremamente dura, perché da sotto, ma la Val Gardena si va su, si fa il passo, ci sono queste montagne, le sassonze, è una roba stupefacente, no? La Val Aurina, se va in macchina, non vede niente, vede in fondo il picco dei Tre Signori quando lo vede. Se non si sale non si capisce la bellezza, bisogna andare su, ed è una bellezza aspra e diversa da quella delle Dolomiti, quindi lui la conosce entrambe, quindi può giudicare. Tra i monti della Valle Aurina non è il Skybach così? Sì, c'è dentro. Sì. No, quella foto non è, quella è la Schwarzbach. Dentro c'è il dentro c'è il Skybach. Quella è la valle. Non quella della copertina. No, quella lì non è il Skybach. No, quella è la Schwarzbach. Le sono memorie, ecco, se c'è qualcuno vuole fare domande. Se volete ancora fare delle domande, magari c'è qualcuno positivo, la dedica, non so. E li facciamo col prossimo libro. Ecco, se volete, no, se mi suggerisce la dedica, ma mi vergogno. No, se qualcuno vede che c'è un esempio, no, esatto, adesso qui firmerai. Sì, io sono qua a firmare, mi dicono, quindi se non venite qua perché faccio anche la figura poi. Va bene, grazie.